dopo una volta che ci prende un attimo la mano è meglio degli altri, lo sai? Non lo so, cazzo, l'ho avuto io, mi prendo un anno intero. Ma è vero. È una bella macchina, guarda, sto a tenere in ordine, è una bella macchina, l'ho avuta la settimana che sei salito in continente tu, l'ho avuta una settimana, cazzo, è era un bel turino. Eh no. Ma cazzo, la stanno mangiando, cazzo, se no è una bella macchina davvero. Se la sta prendendo uno e l'altro, non vedi? Sta pagata. Ma l'ho visto già la male in ordine sempre, c'è un po' tosta, cazzo, puttana come lo vediamo. Sì, ma la valore era enorme, era voce, stava solo lui. Che appaiamo, ma cosa l'avevo io era in ordine, c'è un po' tosta, però, Giù lì e giù. Quando ce l'hai, la prende un giorno uno, un giorno l'altro, allora in poco tempo la macchina te la mangi, già si sa che così, no? Che appaiamo, è come quel sei cazzo, non vuole dito. Fatto. No, dopo questo cannoncino mettiti in zona di sorpasso, dai, che già ti ho chiuso io. Bravo Franco, va. È già sito, va. Se tutto va bene, non c'è casino di 9:30 di finisci. Sono le 3 alle 4:30 di finisci. Ah, sono le 2:30 alle 4 di finisci. Adesso c'è tutto il casino, lo sai che adesso lo stiamo a caricare dopo pranzo il casino. No, ma l'incantino si ferma. Vediamo che sia l'incantino, ma perché se mi avessi sembra che sia riuscito a casa di là, non lo sai. Ma un po' che sarà che viaggi di sabbia non li abbiamo, cazzo, però ci sono rimasti questi viaggi qua adesso, no? Ma questo è il Flos Face, questo è ciò, del 102, le ho carico spostato. Vai, ma un fissante, se sappiamo se si quintale, non fa la camminare. Ma fa bene, uguale, tantissimo a cuore, ma la tenda. Ecco, lì ho preso la peste. Ma lo perdo, i sacchetti. Quando abbiamo una macchina, perché se lo tengo nel cofano loro.